Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Tutti rimangono seduti, Elton John canta Candle in the Wind. Your candles burned out long before your legend ever will. Il 6 settembre del 1997 è un giorno infinitamente triste per una famiglia, per un paese, per il mondo intero, che segue in diretta i funerali di Lady Diana. Sulla tragica morte tutto è già stato detto, e mai sarà detto abbastanza per svelare i misteri che avvolgono le circostanze dell'evento. Fatto sta che quel fatidico 6 settembre il lutto è planetario. Per le strade di Londra si riversano circa 3 milioni di persone. In molti piangono, qualcuno cammina con la testa bassa senza proferire parola, qualcuno porta dei fiori o un bigliettino per quella principessa amata dal popolo che il popolo l'ha sempre amato. Il feretro di Diana viene posto su un affusto di cannone e inizia a percorrere la città. Kensington Palace, passando per Hyde Park e poi fino a St. James's, dove il principe Carlo, i principi William ed Henry, il principe Filippo, il nono conte Spencer Charles e i rappresentanti delle tante organizzazioni di cui lei era benefattrice si uniscono al corteo dietro la bara. Il pubblico, termine agghiacciante da legare l'occasione, ma efficace per descrivere una morte e una vita totalmente mediatica, getta fiori per tutto il percorso. In un incidente stradale avvenuto presso il tunnel dell'Alma a Parigi, muore Lady Diana Spencer, il compagno Dodi Al-Fayed e l'autista Henry Paul. Fra le numerose ipotesi avanzate sulle cause dell'incidente, vengono elaborate teorie su un complotto i cui mandanti sarebbero alcuni membri della famiglia reale e gli esecutori, i servizi segreti deviati. Nella sontuosa abbazia di Westminster viene celebrata la funzione religiosa, di cui si ricorderanno tutti. Un momento particolare. Elton John, che suona per la sua grande amica il brano Candle in the Wind, modificando la versione che aveva scritto per la morte di Marilyn Monroe. È stato un momento molto doloroso per me. Diana era una mia carissima amica e ho voluto omaggiarla con un brano a cui ero molto legato. Oggi, ai Magnifici Destini, vogliamo raccontarvi l'entusiasmante avventura di Elton John, un artista con una personalità marcata, un uomo che ha lasciato un'impronta nella vita di molti, un musicista icona, entrato nella leggenda. Elton John non è il vero nome dell'artista che tutti conosciamo. Si chiama all'anagrafe Reginald Kenneth Dwight. Altisonante è piuttosto difficile da portare per un bambino, perfino per un bambino che già rivela tratti eccentrici, come lui. Reginald nasce il 25 marzo del 47 a Pinner, sobborgo di Londra, nell'abitazione dei nonni materni. È una casa piccola, troppo per accogliere più di due persone, ma i suoi genitori sono costretti ad arrangiarsi come possono. Se con mamma Sheila il rapporto è meraviglioso, con papà Stanley è tutto difficile. Risposte brusche, modi spicci, nessuna dimostrazione di affetto. Tutti e due però hanno una passione per la musica. Stanley è stato trombettista in una band militare semiprofessionale, mentre Sheila colleziona dischi e si tiene aggiornata su tutte le ultime novità discografiche. E per questo, seppur avendo uno spazio ridotto a disposizione, non hanno mai buttato via il pianoforte, che presto diventa l'oggetto preferito dell'unico bambino di casa. Io sapevo di voler fare il musicista da quando avevo 3-4 anni. C'è sempre stata musica in casa mia. Avevamo un pianoforte ed io ho imparato presto a suonarlo. Mio padre suonava la tromba in una banda militare. e mia mamma mi faceva sentire un sacco di dischi. Praticamente sono cresciuto con Nat King Cole e Doris Day. Ero costantemente circondato dalla musica. Il boom del rock and roll scoppia negli anni 50, prima in America e poi in tutto il mondo. Elton John è ancora un ragazzino, ma sua madre, non appena esce un disco nuovo, lo mette nel giradischi e glielo fa sentire. Ballano insieme nel salotto di casa, finché papà non entra nervoso per il lavoro, sbatte la porta e va di sopra, interrompendo la magia. Elvis Presley e Bill Haley and its Comets diventano presto i punti di riferimento del piccolo Reginald, che sa a memoria i testi e si diverte a riprodurre le melodie al piano, senza l'aiuto di spartiti. Ho imparato a suonare a orecchio. Solo in un secondo tempo sono effettivamente andato a lezione di pianoforte. In pratica, sapevo già suonare da solo. Al pianoforte, il timido Reginald si trasforma. Si siede, prova, si fa prendere dal ritmo, si muove a tempo. L'aveva già detto la nonna che era un talento quando a 3 anni le aveva fatto sentire le prime cose, ma l'avevano tutti liquidata come se un bambino così piccolo non potesse ancora dimostrare niente. E invece adesso che è cresciuto, Sheila si rende conto che suo figlio ha davvero una marcia in più. Lo sente suonare The Skater's Waltz di Winfred Attwell a orecchio e lo iscrive a una scuola di musica. A 7 anni, il futuro Elton John prende lezioni private. A 11, riceve una borsa di studio per la prestigiosa Royal Academy di Londra. Non la finirà mai, con tutta la sregolatezza che contraddistingue il suo genio. Alla Royal Academy of Music, Elton John si annoia. Inizia suonando Bach e Chopin e fa parte del coro dell'Accademia il sabato, ma quando guarda fuori dalla finestra, oltre il giardino perfettamente tagliato della scuola, non può fare a meno di pensare che mentre è lì seduto, il mondo fuori si sta muovendo. Non gli piace l'ambiente pettinato dell'istituto dove tutto è perfettamente ordinato e gli allievi, ubbidienti al limite dell'adorazione, non dicono mai una cosa che sia fuori posto. E pensare che più tardi si sarebbe sentito perfettamente a suo agio nell'ufficialità dei palazzi reali. Vorrebbe uscire, vivere il rumore delle strade, scoprire i dischi introvabili nei negozi. Insomma, quello che vorrebbe in una parola è rock and roll. Negli anni 60, quando impazzavano i Beatles, io andavo a scuola. E tutti avevano voglia di suonare in una band. Ce n'erano molte di più di adesso. Hanno influenzato con le loro canzoni, ma di certo anche molto col loro stile, i tagli dei capelli e le giacche che portavano. Per quel che mi riguarda, hanno certamente influenzato il mio modo di scrivere musica. La qualità delle canzoni scritte dall'accoppiata Lennon-McCartney è fuori da ogni discussione. Londra è in fermento. Il Time la definisce con un termine che sarebbe passato alla storia. Swinging. In una decade dominata dalla gioventù, Londra è in fiore. È swinging, brilla. È lì che succede tutto. L'antica eleganza e la nuova opulenza si sono fuse nel pop. Il cambio della guardia passa da Buckingham Palace a Lennon e McCartney. Ma Londra non si tiene tutto per sé. Il beat sta invadendo il mondo. Carnaby Street, nella zona di Regent Street e Piccadilly, è il cuore pulsante delle nuove tendenze che partono da qui per invadere il globo. Poco dopo l'arco con scritto il nome che segna l'entrata nella via, John Steven apre la sua prima boutique, con una vetrina che non concede spazio alla sobrietà. Capi vistosi, colori vivaci, conquistano i giovani, le star, e tra poco lo stesso Elton John. Mary Quant inventa la minigonna, pochi centimetri di meno che scoprono le gambe, liberano le ragazze e danno il via alla rivoluzione. Il giovane Reginald Kenneth Dwight non può proprio lasciare che tutto questo gli scorra davanti senza fare nulla. La cosa che vorrebbe di più al mondo è incontrare i personaggi più popolari del periodo. E la vita presto lo porterà proprio lì, al centro della scena. Diventerà amico dei più grandi musicisti e artisti. Avrà rapporti fraterni con future regine come Lady Diana e sarà il punto di riferimento per molte star. Ma intanto adesso, mentre continua a frequentare l'accademia con grande profitto ma senza entusiasmo, fonda la sua prima band con la quale gira i pub di Londra a contatto con la gente, con la vita. È il suo primo magnifico incontro del destino. Quello con i Bluesology. Ci esibivamo tutte le sere dal giovedì alla domenica. Ci davano 35 sterline a serata, più le mance. Certo, non era un granché, ma non mi importava. Io volevo solo fare esperienza, far pratica con un pubblico in carne e ossa che poteva applaudire, ma anche fischiare. I bluesology di Elton John girano tutti i pub di Londra e poi si spingono oltre la capitale per suonare in lungo e in largo in tutta l'Inghilterra. Nel 65 incidono il loro primo 45 giri, Come Back Baby, pubblicato dalla Fontana Records. Successo commerciale scarsissimo, come il seguente Mr. Fanatic, che ancora oggi qualche collezionista conserva come rarità. L'agenzia di Roy Tempest li ingaggia per fare da spalla a diversi gruppi in tournée nel Regno Unito, come The Isley Brothers, Major Lance, Doris Troy e i Le Labelle. Nel 1966, al Cromwellian Club in South Kensington, Elton e i suoi vengono notati da Long John Baldry, un cantante abbastanza conosciuto nell'ambiente musicale londinese del periodo. Finito il loro concerto, Baldry si presenta in camerino e propone ai bluesology di diventare la sua band di accompagnamento nelle varie serate. Neanche a dirlo, la risposta è sì. Poteva essere la nostra occasione, abbiamo accettato con entusiasmo. Poi anche questo si sarebbe rivelato un flop, ma non importava. In quel momento eravamo felici del fatto che qualcuno cominciasse a credere in noi. Incredibile vedere Elton John sul palco scatenato per poi rivelarsi timido e introverso in privato. C'è da dire però che almeno adesso è più sereno. Sua madre e suo padre hanno divorziato e lui si è scoperto felice di non dover più essere costretto a sentire quei continui litigi. In più, l'uomo con cui sua madre si è risposata da poco, Fred Fairbrother, sta diventando per lui un vero punto di riferimento. Lo chiama con un nomignolo, Derf, che è il suo nome al contrario. Gli chiede consigli, lo stima moltissimo. Vivono in un complesso di 8 appartamenti, From Court, non molto distante dalla casa in cui vivevano prima, ma abbastanza perché questo rappresenti un altro cambio di vita. Elton si sposterà da qui tra molto tempo, dopo ben 4 album ormai inseriti stabilmente nella top 40 americana. Non può certo immaginare ancora che dalla periferia di Londra arriverà fino ai palazzi reali. Elton John al piano si ispira a personaggi che al talento musicale aggiungono una forte presenza scenica. Little Richard, per esempio, che più tardi citerà anche nel brano Made in England. E Jerry Lee Lewis, che con il suo modo di muoversi lo ha profondamente influenzato. Ma nei bluesology c'è la democrazia. Ognuno al suo posto, nessun componente emerge più degli altri. Quello che all'inizio per me era un valore, il fatto che fossimo tutti uguali, con il tempo ha cominciato a pesarmi. Io volevo apparire. Più crescevo e più me ne rendevo conto. Stare sul palco per me, ancora oggi, vuol dire fare uno show di cui sono protagonista. E così ho cominciato a capire che i bluesology mi stavano stretti. Nel 67 Elton John lascia i bluesology, che si sciolgono e smettono per sempre di fare musica. A loro però deve moltissimo. Non soltanto le prime esperienze live, importanti per la sua crescita di uomo e di musicista, ma anche il suo pseudonimo. Elton come Elton Dean, il sassofonista del gruppo, e John come Long John Baldry, il cantante che è stato il primo a credere in loro. Beh, Reginald non è certo un nome che associ immediatamente con un ragazzo giovane. Io e Diana ridevamo spesso di questo. È un nome orrendo e poi è tipicamente da adulto. È uno di quei nomi da buona borghesia che non mi sono mai piaciuti. Io ho passato una bella infanzia, ma appena ho potuto sbarazzarmi di quel nome, l'ho fatto. Anche perché non ho mai pensato che mi rappresentasse. Mi è sempre suonato come qualcosa di estraneo. Ci voleva qualcosa di più romantico. Proprio convinto di essere in grado di spiccare il volo da solo, Elton John ancora non lo è. Ecco perché fa diversi tentativi, tutti andati male, per diventare il cantante dei King Crimson e poi dei Gentle Giant. Finché a giugno, mentre sta bevendo un tè in un bar per ripararsi dalla pioggia che a Londra non dà tregua, si imbatte in un annuncio del New Musical Express. C'è scritto che la Liberty Records cerca nuovi talenti. Proprio talenti, così in forma generica. Deve essere per questo che dall'altra parte della città un giovane paroliere che sta leggendo lo stesso annuncio decide anche lui di andare a sentire di cosa si tratta. In fondo non ha niente da perdere. È il secondo magnifico incontro del destino di Elton John, Bernie Taupin. Ero un ribelle, non mi andava bene niente. Avrei fatto qualsiasi cosa pur di restare libero, libero di prendere le mie decisioni, non seduto dietro ai banchi ad imparare idee che erano già appartenute ad altri. L'unico modo che avevo per sentirmi padrone dei miei pensieri e di rivendicarli come miei, come prodotto totalmente originale della mia testa e del mio essere, era metterli per iscritto. Mi è sempre venuto naturale. Bernie Taupin, classe 1950, è cresciuto in una fattoria in mezzo alla campagna, senza elettricità. La sua famiglia, poverissima, gli ha insegnato che nella vita bisogna barcamenarsi e così lui, affascinato dalle parole al punto da iniziare a scrivere poesie ancora da bambino, mette da parte la sua passione e si rimbocca le maniche. Fattorino, lavapiatti, bracciante, accetta qualsiasi cosa pur di mettersi in tasca qualche soldo. Non sogna di diventare famoso, sogna semmai di vivere della sua scrittura. Ma è troppo con i piedi per terra per crederci davvero. Non avrei voluto stare in città. Per essere felice mi bastava sedermi a guardare i campi e lasciare andare la mia immaginazione. Poi prendevo carta e penna e scrivevo qualche verso. A volte mi veniva di getto, a volte non mi veniva nulla. Sarò sempre grato ai miei genitori per come sono cresciuto. Se sono così, è per merito loro. I magnifici destini. Ai magnifici destini siamo a Londra, alla fine degli anni 60. Elton John, il nostro protagonista di oggi, è un grande pianista, ma molto poco accademico. Alla disciplina della scuola di musica, infatti, ha preferito le avventure in giro per i pub dell'Inghilterra con i suoi bluesologi, che ha appena lasciato per tentare la carriera da solista. E così, quando si imbatte in un annuncio sul New Musical Express, che dice che la Liberty Records sta cercando talenti, si precipita a sentire di che cosa si tratti. La stessa cosa che fa anche Bernie Taupin, paroliere in cerca di qualcuno a cui mettere in bocca le parole. Quando io e Bernie ci siamo incontrati grazie all'annuncio su quel giornale inglese, io suonavo in una band da ormai 4 anni e cominciavo ad essere stufo. E dunque c'era questa casa discografica alla ricerca di nuovi talenti, nuovi compositori di canzoni. Ho risposto all'annuncio, mi sono presentato e ho detto: mi serve un paroliere. Ed ecco che salta fuori Bernie. Un modo strano per conoscersi. E così, al cospetto del manager Ray Williams, che comincia una delle collaborazioni più fertili e durature della storia della musica, quella tra Elton John e Bernie Taupin. Il primo brano scritto dai due si intitola Scarecrow. Averlo incontrato è stato davvero un colpo di fortuna, anzi, è stato un segno del destino. Tutto quel che riguarda Elton John, altrimenti, non sarebbe mai successo. Io sono debitore a Bernie per ogni suo pensiero ed ogni suo sentimento. Sono loro ad animare le mie canzoni. Il lavoro del duo Taupin John è incessante. Giorno, notte, qualche breve pausa per mangiare e poi di nuovo sotto. Elton al piano e Bernie di fianco a lui. Sono ancora due ragazzi, pieni di entusiasmo ma inesperti, e non immaginano neanche lontanamente dove il loro talento li porterà. Elton John, per sbarcare il lunario, fa il turnista in sala di incisione per altri gruppi di notorietà almeno locale e riadatta numerose canzoni di successo. Nonostante bussi alle porte di tutte le etichette per farsi produrre le sue composizioni, nessuno sembra credere in lui. Musiche troppo poco orecchiabili, testi poco commerciali, è quello che si sente dire ogni volta. Chi l'avrebbe detto che più tardi i più grandi musicisti del mondo avrebbero pagato oro per suonare con lui? Ma fatto sta che sia lui che Taupin ripiegano su canzoni su commissione. Vale a dire, la DJM Records li mette sotto contratto e loro firmano decine di brani per gli artisti della scuderia. Era piuttosto frustrante. Per carità, ci andava bene perché ci consentiva di mantenerci. Però scrivere per gli altri, con tutto quello che avevamo già pronto perché lo cantassi io, insomma, io ho sempre voluto fare il protagonista. Non mi interessava stare nell'ombra. This I can't believe, I said, I can't believe our warlord's dead. Oh, we will not leave the chosen ones to the buzzards and the soldiers' guns. Oh, great father of the Iroquois, ever since I was young. Il debutto di Elton John è con l'album omonimo, datato 1970. Contribuiscono alla produzione Gus Dudgeon e agli arrangiamenti Paul Buckmaster, entrambi reduci dal lavoro per Space Oddity di David Bowie, che dichiara pubblicamente di non avere gradito il passaggio di testimone. Il disco viene registrato live in studio in pochi giorni con l'orchestra e una sezione ritmica. Le atmosfere sono cupe e le melodie ricche, quasi barocche, indubbiamente influenzate dalla classica. La critica applaude e il pubblico, perfino in America, comincia ad accorgersi del timido ragazzo con gli occhiali. Beh, le cose sono andate più o meno gradualmente finché non siamo approdati in America per la prima volta e abbiamo suonato al Troubadour a Los Angeles, dove c'erano all'incirca 250 persone, roba che noi non avevamo mai visto. E il giorno dopo si è sparsa la voce. I giornali hanno scritto cose stupende su di noi e il disco ha iniziato a scalare le classifiche. È cominciato tutto da lì. Praticamente abbiamo sfondato prima in America e poi in Inghilterra. Finalmente allo stravagante e talentuoso Elton John il mondo dà la possibilità di raccontarsi attraverso la sua musica. Nei primi anni 70 la star sforna una media di 1-2 dischi nel giro di 12 mesi e il livello qualitativo è sempre altissimo, tanto da riuscire a mettere d'accordo gli intenditori e i DJ che in radio continuano a mandare i suoi pezzi. Il successo di Elton John, difficile nel decollo iniziale, adesso è travolgente. C'è chi parla di lui come il nuovo messia rock. In molti lo definiscono l'unico vero erede dei Beatles. Robert Hilburn, sul Los Angeles Times, nell'agosto 1970, lo chiama la prima grande rock star degli anni 70. Quando esce Your Song, John Lennon afferma che è la prima volta che sente qualcosa di veramente nuovo dopo lo scioglimento dei Beatles. Non credevo alle mie orecchie. Prima niente. E poi di colpo il mondo si accorgeva di me. Quando ho sentito cosa ha detto John Lennon, il mio mito di sempre, stavo per mettermi a piangere. Se la bravura di Elton John sta facendo molto parlare, non da meno è il suo look. Negli anni 70, sulla scia del glam rock alla David Bowie, indossa lustrini e trucco ostentato, per poi passare a occhiali da vista con forme e colori stravaganti, che diventano il suo marchio di fabbrica. E non tutti sono d'accordo. All'inizio la critica era molto colpita dalla mia musica, ma quando cominciai a indossare i costumi, tutti dissero che non ce n'era bisogno. E che sarebbe stato meglio se fossi salito sul palco con un paio di jeans e una maglietta. Ma quello non sarei stato io. Mad Men Across the Water, perla della prima fase di carriera in cui il barocco incontra alla perfezione il folk rock sinfonico. 1973, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, un omaggio a Truffaut e Goodbye Yellow Brick Road, forse il suo più celebre, che staziona al primo posto per 8 settimane negli Stati Uniti e per 2 nel Regno Unito. 1975, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, ambizioso concept album che diventa la definitiva consacrazione internazionale. Sono solo alcuni dei numerosi titoli prima del parziale ritiro per calo di vendite alla fine degli anni 70. Ma la star Elton John è tutt'altro che decaduta. Lo dimostra il successo del concerto del 13 settembre 1980, quando canta davanti a 500.000 di persone. È un nuovo inizio. La carriera continua tra alti e bassi, tra canzoni, travestimenti eccentrici, matrimoni da gossip e in alcuni periodi eccesso di droghe. Elton John fa beneficenza con il Live Aid, guarisce dalla bulimia, fa coming out e dopo un periodo difficile rinasce esponendosi in prima linea nella lotta all'AIDS. La musica, quella, non la abbandona mai. La musica è la mia vita. È grazie alla musica se sono uscito dai miei periodi bui. Non potrei stare senza, per nulla al mondo. I duetti sono una passione per Elton John. Nel corso degli anni si esibisce in performance indimenticabili con amici come Eric Clapton e George Michael, ma è quello con una donna il suo esperimento meglio riuscito. Stiamo parlando del terzo magnifico incontro del destino dell'eccentrico pianista con gli occhiali, quello con Kiki Dee. Ero abituata a fare da spalla, ma che me lo chiedesse una star planetaria del calibro di Elton, wow, non ci credevo. E poi abbiamo avuto un grande successo. Kiki Dee non è un personaggio che vive sotto le luci della ribalta, ma gli addetti ai lavori la conoscono tutti fin dagli anni 60. Infatti è una grande corista e interprete di cover alla radio della BBC e nella sua carriera ha accompagnato con la voce numerosi artisti. Come solista, per la verità, non ha un grande successo, ma quando canta con qualcuno dà il meglio di sé, dando un valore aggiunto per cui tutti la cercano. Ha anche partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Fred Buongusto, con un brano arrivato quarto nella classifica finale, ma di certo la sua canzone più famosa è proprio il duetto con Elton John. Il singolo Don't Go Breaking My Heart viene pubblicato come singolo nel 76 e arriva immediatamente al primo posto sia nella single chart britannica che nella Billboard Hot 100 americana. Con Kiki abbiamo fatto Don't Go Breaking My Heart e poi nel 93 l'ho richiamata per fare con me una cover di True Love di Cole Porter da inserire nell'album Duets. Oh, lei è veramente fantastica. Destino. Ai magnifici destini stiamo raccontando una vita e una carriera piena di incontri, quella di Elton John. Sopra le righe, quando si racconta, eccentrico nel look di cui gli occhiali strani sono il simbolo, timido e introverso nel privato, intrattenitore carismatico sul palco. Questo eterno ragazzo a 65 anni suonati non si stanca mai di stupirci. Ha iniziato in gruppo con i Bluesology, ha percorso la strada del solista in collaborazione con Bernie Taupin, suo paroliere di fiducia, e si è esibito in duetti indimenticabili come Don't Go Breaking My Heart con Kiki Dee. Rappresenta la quintessenza dello stile British ed è un'icona che identifica la Gran Bretagna ovunque. Non a caso, oltre a essere stato amico intimo di Diana, è da sempre stimato da tutti i reali. Già fatto commendatore dell'eccellentissimo ordine dell'impero britannico, la regina Elisabetta lo ha nominato cavaliere per servigi resi alla musica, alla cultura inglese e alla beneficenza. Io sono un tipo di compositore che si mette al pianoforte ogni giorno dalle 9 alle 5. Seguo l'ispirazione. So quando è l'esatto momento in cui sto per scrivere una canzone. Lo so e basta. Il suo stile è speciale, essendo completamente basato sul pianoforte in un mondo dominato dai chitarristi. Addirittura nei primi concerti ha tentato di eliminarla completamente la chitarra. Impossibile inserirlo in un'unica corrente musicale. Ha di certo dato un contributo fondamentale all'evoluzione del piano rock, ma anche improvvisato con elementi della cultura afroamericana. Ha dato vita a brani cupi e nevrotici e ad altri molto più divertiti. Si è lasciato tentare dal country e anche dal progressive rock. Anche il suo modo di cantare è unico. Particolare modo di pronunciare le parole e alternanza di falsetto con timbro originale, quello di tenore. Se come tutti Elton John ha vissuto alti e bassi, il 94 rappresenta di certo il suo momento d'oro. Il merito va anche al suo quarto magnifico incontro del destino. Lui è Tim Rice, conduttore radiofonico, autore televisivo, ma soprattutto grande autore di testi per le canzoni di film e musical. Io so scrivere la musica, ma non so proprio scrivere i testi. Ci ho provato, ma è un disastro. E dire che per me le parole sono importantissime. Per prima cosa le studio, poi mi metto a comporre la melodia. Credo che molta gente compri i miei dischi per via di quelle parole. Si siedono nei loro salotti e l'ascoltano attentamente. Sir Timothy Miles Bindon Rice, inglese doc almeno quanto Elton John, dal modo di esprimersi all'aspetto da Lord, ama scherzare dicendo che se in America lo conoscono è perché ha fatto una piccola apparizione in About a Boy a fianco di Hugh Grant. In realtà ha ben altri meriti. È stato cofondatore del Guinness Book of British Hit Singles ed è un appassionato matematico. È stato presidente di un'importante squadra di cricket e soprattutto ha lavorato a lungo con il re dei musical, Andrew Lloyd Webber. Insieme i due hanno scritto Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Jesus Christ Superstar ed Evita, tra gli spettacoli più emozionanti di successo duraturo del West End. Quando incontra Elton John, Tim Rice ha già un Oscar in tasca. Lo ha vinto l'anno prima, nel 93, con il brano A Whole New World, tratto dal film Aladdin. Elton John e Tim Rice si incontrano per la prima volta in uno studio di registrazione. A volerli insieme è la produzione de Il Re Leone, 32esimo classico Disney secondo il canone ufficiale. Sembra che il vento stia cambiando. Ah, i cambiamenti sono positivi. Sì, ma non è facile. So quello che devo fare, ma... tornare significa affrontare il mio passato. Sto scappando da troppo tempo. Ai! Che male! Perché mi hai colpito? Non ha importanza! Ormai è passato! Sì, ma continua a fare male. Oh, sì, il passato può fare male. Ma a mio modo di vedere, dal passato puoi scappare oppure imparare qualcosa. La trama de Il Re Leone, ambientato in Africa, è influenzata dalla storia biblica di Giuseppe e Mosè, oltre che dall'Amleto di Shakespeare. La frase più famosa del film, Hakuna Matata, un modo di dire che significa no problem, senza pensieri, era la canzone che cantava continuamente l'autista della Jeep durante la prima ispezione degli sceneggiatori. L'incasso della prima settimana è a dir poco deludente, $50, ma successivamente in tutto il mondo ne incasserà più di 700 milioni. È innegabile che gran parte del successo de Il Re Leone la si debba alla musica, che usa sonorità africane riarrangiate ad hoc. Tim Rice ed Elton John, lavorando gomito a gomito per scrivere parole e melodia, sfornano 5 titoli originali, con Elton John che nei titoli di coda canta Can You Feel the Love Tonight? Risultato? 2 premi Oscar nel 94 come migliore colonna sonora e come migliore canzone. Le nuove generazioni incontrano Elton John. Non avrei mai pensato che la colonna sonora di un film potesse avere tanto successo. I bambini cantavano le mie canzoni. Non era mai successo prima. Quando ho cominciato, non mi considerava nessuno. Dicevano che facevo cose troppo difficili. E adesso arrivare anche ai bambini per me vuol dire avercela fatta. Curiosa la carriera di Elton John. Altalenante, ma mai data per finita. Fatta di momenti molto delicati come il periodo della depressione e di successi sociali ufficialissimi come la nomina di Sir da parte della regina. Fatta di dolori privati resi pubblici, i funerali dell'amica Diana e di allegria trasgressiva in occasione del matrimonio con il compagno di lunga data David Furnish. E poi ancora premi, colonne sonore, concerti immemorabili. Sono molte le star che hanno dichiarato di essere state influenzate da Elton John. Phil Collins, i Queen, Axl Rose, George Michael, Mika... Anastasia, voce unica nel panorama contemporaneo, ha detto di essere cresciuta esercitandosi con i brani del suo mito. Tutto questo per dire che Elton John di strada ne ha già fatta parecchia. Chissà quanti sono ancora i magnifici destini che lo aspettano. It's enough for this one.